Siamo tornati in onda con Sono Solo Nuvolette, oggi con un leggero ritardo causa traffico in tangenziale, sono cose che capitano. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, se volete anche seguirmi, followarmi, dite quello che volete su Twitter, questi nuovi canali tecnologici che io seguo fino a un certo punto, perché un social network manager che si chiama Eddie Pedro, che è un mito, io in realtà sono un po' anti-social, questi, ognuno ha i suoi problemi. E oggi ho il piacere di avere qui un amico che si chiama Clay Dembeck, ha un nome molto altisonante. Particolare. E ha una maglietta, per chi lo vede in webcam, in streaming. Dov'è la webcam? È laggiù. Ti ho messo in risalto. E l'ospite, quello è sempre il posto dell'ospite. Che in questo caso Ghostbusters. Sì, esatto, perché quella Ghostbusters era da lavare. ok. Vicino al microfono, per favore. Quindi l'altra nel cassetto era questa qua, Ghostbusters. Ok. Che è quella per i giorni cattivi. Diciamo. Ok. Non è perché oggi non è un giorno cattivo, però c'era quella. No? Okay. Per rimanere in tema Ghostbusters. Ok. E nel tuo caso tu non porti semplicemente una maglietta di questo tipo per hobby, ma c'è un motivo importante, se vuoi lo faccio dire a te così. Esatto. Io sono uno dei soci fondatori di Ghostbusters Italia. Non ho solo la maglietta, ho anche il tatuaggio di Ghostbusters Italia. E quello è impegnativo, eh? Questo è impegnativo ed è professionale, diciamo. Beh, certo. Ho la patch stampata sulla pelle, quindi è sintomo di... Ok. C'è un certo legame molto forte con quella... Quello di sicuro, sì. E Ghostbusters Italia è l'associazione che in Italia si occupa di eventi, valorizzazione, tutto ciò che è legato al mondo dei Ghostbusters. Esatto, sì, è il fan club ufficiale, ufficializzato dalla Sony Universal. È un'associazione culturale senza scopo di lucro da settembre del 2014, quindi dall'anno scorso. Siamo quasi a un anno di attività. Anche se comunque il forum di Ghostbusters Italia è attivo da 10 anni. Infatti il prossimo anno facciamo 10 anni. E siamo lì che stiamo pensando di fare un nostro evento. Ok, ed è cambiato un po' il mondo. All'inizio penso che aveste cominciato a fare piccoli eventi, poi pian piano questa cultura pop sta crescendo di interesse ovunque. Esatto, diciamo, io sono arrivato nel club, nel forum nel 2013, dove ho fatto il mio primo Cartoomix, quando avevo appena finito di costruire il mio zaino protonico, che è il sogno di ogni bambino, e l'ho indossato appunto a 33 anni e sono tornato indietro di almeno 27 anni, 25 anni a rimettermi lo zaino protonico per la prima volta con la divisa e tutto quanto. E quando è stata la prima volta che hai incontrato qualcun altro con un altro zaino protonico e avete detto non incrociate i flussi? La prima volta è stata sempre nel 2013 al Cartoomix del 2013, dove ho incontrato Gush, il nostro master proper, che io l'ho sempre visto attraverso le pagine di internet e lo vedevo un po' come il maestro che ha fatto il primo zaino protonico in Italia. Adesso è veramente il mio maestro, perché comunque lui, avendo abbastanza pratica ormai a fare prop, zaini protonici, trappole, Ecto Google, insomma tutto quello che è l'attrezzatura di Ghostbusters, adesso diciamo sono il suo allievo, mi ha insegnato parecchie tecniche e adesso sono all'opera come prop maker. Questo è un lato poco noto a chi non frequenta l'ambiente della cultura pop delle fiere, ma molto importante, la costruzione degli oggetti di scena, i prop che sono, esatto, in gergo. Esatto, sì, che in qualsiasi costumer o cosplayer, diciamo, che è in grado di costruirsi le proprie cose, nel suo piccolo è un prop maker comunque, perché bene o male si va sempre a ricreare un oggetto che qualcun altro ha inventato. C'è anche della difficoltà tecnica, immagino, comunque a crearli. Tante volte gli stessi materiali, non riesci a sapere esattamente con che materiali siano fatti, perché in origine sono oggetti di scena fatti per quell'occasione e per esistere non nella realtà ma sullo schermo. Esatto, infatti colgo l'occasione per una curiosità ovviamente su okay. Ghostbusters, tipo il PKE, che è il rilevatore di fantasmi, quello che c'ha le due alettine, okay, che si alzano, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Quello lì quasi più famoso dal cartone animato che dai due film. Eh beh, sì, forse sì. E comunque quello lì era un lucido da scarpe. In origine era un lucido da scarpe che il buon Harold Ramis, che è mancato l'anno scorso, che era Egon dei Ghostbusters, Egon Spengler, ha creato così, ha detto ma questo qua modifichiamolo un po' e facciamoci un PKE, l'ha fatto. Molti oggetti di Ghostbusters, visto che stiamo parlando di quello, sono arrivati da altre cose, tipo c'è il gigameter, un altro attrezzo che non mi viene in mente come si chiama, ma non importa, che è praticamente un rilevatore di campo elettromagnetico con una schiumarola e una paletta, proprio quelli da cucina, infilati sopra e piegati, quindi che io neanche ci ho fatto caso poi quando appunto l'ho rivisto sul banco di GB Italia, che l'ha fatto appunto Gush, ha detto: ma c'è una schiumarola e una palette? Fa sì, sì, ma se tu guardi il film è così. Allora sono andato a rivedermelo, in effetti è così. È una cosa affascinante la costruzione di un mondo terzo. Il cinema questo lo fa da decenni, se non dalla sua stessa origine. La costruzione di un mondo esterno. Tu crei senso, crei un mondo da oggetti banali e poi a quel punto lì non vedi più l'oggetto originario. Sì, sì, vedi un oggetto nuovo creato da altre cose. Tipo anche sullo zaino protonico ci sono delle parti che realmente servono a far funzionare dei macchinari anche grossi e importanti, tra cui le clipboard, che sono delle valvole di sfogo. Varie, anche solo l'acceleratore nucleare, alla fine noi pensiamo all'acceleratore nucleare, cos'è? È il CERN. Cioè, noi pensiamo che nell'84 Dan Aykroyd e Harold Ramis hanno inventato, hanno ipotizzato un acceleratore nucleare portatile, quando adesso noi ce l'abbiamo in Svizzera, enorme, grosso come quasi tutta una città. E tornando al discorso di prima della difficoltà a creare prop e comunque accessori, diciamo che ormai grazie appunto a YouTube, internet, a tutti questi forum, queste cose, c'è molta più possibilità di imparare a fare delle cose che magari anche solo fino a 7-8 anni fa non riuscivi. E anche i materiali, riesci a trovare più materiali, perché essendoci più gente che cerca di fare queste cose, anche i commercianti alla fine si sono, diciamo così, fatti furbi, dicendo: boh, prendiamo anche noi dei materiali che fino adesso non abbiamo mai preso perché nessuno ha mai utilizzato. Perché ricordiamo che noi in Italia siamo molto indietro per queste cose, ma molto indietro. E negli Stati Uniti, un posto a caso, perché comunque è la patria dei materiali chimici e industriali, è molto avanti, ha delle materiali che noi non ci immaginiamo neanche. Infatti una volta che tu ti addentri in questo mondo, inizi a scoprire delle cose, che dei materiali che non pensavi neanche esistessero. Poi ne inventano sempre di nuove. Adesso ce n'è un materiale nuovo che non mi viene in mente come si chiama, che è praticamente una lastra termoformante, quindi tu la scaldi con la pistola a caldo e poi te la modifichi come vuoi, è carteggiabile. Quella lì molti la utilizzano adesso per fare le armature. Quindi si sono evoluti anche l'utilizzo dei materiali allo scopo di creare oggetti di scena. Esatto, sì, hanno proprio creato materiali nuovi per seguire questa tendenza. Adesso non so se creato o semplicemente pubblicizzato. Esatto, di più. Magari creato da zero, no, però c'erano già prima e sono stati pubblicizzati, diciamo, sdoganati per okay, queste cose qui. Nel momento in cui le fiere di fumetto cominceranno a promuovere anche la ricerca scientifica di nuovi materiali, noi avremo vinto, saremo soddisfatti, sì, perché sì, tutta questa nerditudine non sarà buttata a vuoto. Esatto. Ma internet ha avvicinato tutto questo mondo, tutta una serie di appassionati, li ha resi più vicini, che magari erano sparpagliati per l'Italia, li ha resi più vicini, ha creato una comunità che prima non c'era, prima era qualcosa di molto più rarefatto. Sì, io prendo sempre in esempio Ghostbusters, perché ovviamente è la mia passione, è il fan club che io ho creato insieme agli altri ragazzi di Ghostbusters Italia. E mi sono reso conto, soprattutto quando è mancato Harold Ramis l'anno scorso, che a parte che ci sono una quantità veramente enorme di fan di Ghostbusters, ma non solo fan che dici sì, mi piace il film, ma fan che hanno lo zaino protonico, che hanno la tuta, che si costruiscono le trappole, che costruiscono l'unità di stoccaggio, che è quella dove si mettono le trappole, eccetera eccetera. E quando c'è stato appunto questo evento che è mancato Harold Ramis, eravamo tutti, nonostante magari c'erano in Italia, dall'altra parte negli Stati Uniti, eravamo tutti uniti, tutti vicini per la mancanza di questa, per la perdita di questa icona per noi, perché comunque non dimentichiamoci che Harold Ramis insieme a Dan Aykroyd ha scritto la storia di Ghostbusters. Esatto, cioè. E non dimentichiamoci che Ramis, Aykroyd, Bill Murray vengono dallo Saturday Night Live, tutto da una scena di umorismo americano, sì, che sì, ha fatto la storia. Sì, all'epoca erano... non da poco, cioè, esatto, cioè, erano dei king, una dei banda di buffoni sicuramente, ma buffoni, sì, sì. Poi ci sono tutti i mondi contigui, nel senso, in un certo, è come se Blues Brothers fosse vicino per via di Dan Aykroyd, per via di della condivisione con alcuni degli attori protagonisti, e comunque la scena da cui venivano tutti questi, sì, persone. Sì, poi tra l'altro l'altra curiosità sul film Ghostbusters, la parte che ha fatto poi Bill Murray doveva essere data a John Belushi, esatto, che però è mancato prima che iniziassero le riprese, quindi poi hanno puntato su Bill Murray. Io sono molto curioso, sarei stato molto curioso di vedere un Ghostbusters con Peter che era Belushi, visto che Belushi è un altro dei miei grandi, esatto, grandi punti saldi. Esatto, e poi sarebbe stato qualcosa di molto diverso. Esatto, in quegli anni sono usciti parecchi film, non da poco, che comunque bene o male anche questo trio di personaggi c'entrano. Perché comunque anche solo, beh, Ritorno al futuro non c'entra niente con De Niro e tutto quanto, però lo stesso anno successone anche quello, The Blues Brothers che hai citato prima, quello lì era dell'83 mi sembra anche quello, e cioè un altro film cult insostituibile, The Blues Brothers, Ghostbusters, Indiana Jones, hanno fatto tutta una serie di film in quegli anni che adesso stanno cercando di rifare, ma... Secondo me sta succedendo qualcosa alla cultura pop. È come se ci fosse stato un momento di barlume eccezionale in quegli anni tra fine 70 e primi 80, in cui, questo per dirlo da espertone di settore, il mercato ha coinciso con l'arte. Succede in poche volte nella storia, è successo poche volte nella storia umana. Sì, dicono, sì, che è stato con i Beatles e con la scena rock negli anni 60, è stato quel cinema. Sono momenti particolari, noi qui è come se vivessimo in una sorta di neoclassicismo legato a quello. Però hai citato Ritorno al futuro, quindi io ne approfitto, visto che siamo partiti un po' in ritardo, lancio subito la prima canzone, che viene dalla colonna sonora di Ritorno al futuro, è il secondo pezzo in realtà rock di Huey Lewis and the News legato al franchise di Ritorno al futuro, e si intitola Back in Time. E direi che si faceva ascoltare come pezzo, infatti fuori onda ballavamo, poi sì, ho ricevuto una chiamata dal commercialista, e quindi sono quelle cose che distraggono. Il commercialista purtroppo. Sono sempre un po', non sai mai cosa può succedere. Esatto, può succedere qualsiasi cosa, i fantasmi. Ma chi tu chiamerai? Ghostbusters. Ma la prima volta che tu hai visto Ghostbusters? Allora, come la maggior parte di noi fan, penso che, visto che in Italia è stato mandato in televisione perlomeno prima il cartone animato, ho seguito prima i cartoni animati, e devo dire che all'epoca, visto che io uscivo da scuola alle 4:30, arrivavo a casa che la maggior parte delle volte The Real Ghostbusters era finito, quindi cosa facevo? Cambiavo canale, andavo su Junior TV e mi guardavo i Filmation Ghostbusters. Ah, okay. Che sono gli altri, quelli con Eddie, Jack e Grunt, che comunque sono i primi Ghostbusters, che sì, è una serie TV del 76. E poi, visto che mia mamma è credo è che l'avessero prodotta come serie animata perché c'era il film in produzione, per battere sul tempo. Esatto, no, più che allora hanno fatto la serie TV nel 76, che ha fatto mi sembra uno o due serie, poi hanno accantonato il progetto, e intanto Ivan Reitman ha iniziato a fare Ghostbusters il film, e in contemporanea tutto il merchandise dei giocattoli e del cartone animato, perché è tutto partito in contemporanea. E allora la Filmation cosa fa? Boh, facciamo anche noi, visto che l'abbiamo fatto prima noi, Ghostbusters, esatto, facciamo un cartone animato anche noi. E c'è stata una diatriba tra Columbia e Filmation, che ovviamente la Columbia è la Columbia, la Filmation erano piccolini, e quindi i The Real Ghostbusters sono quelli della Columbia, quindi i Ghostbusters quelli conosciamo, Egon, Ray, Peter e Winston. Mentre Eddie, Jack e Grunt, che erano i primi veri Ghostbusters, sono passati come Filmation Ghostbusters, che comunque sono due modi di acchiappare fantasmi, diciamo, in modi diversi. Uno molto scientifico, quindi quello dei The Real Ghostbusters, e l'altro molto cartone animato, non tanto realistico, per quanto può essere realistico andare in giro con un acceleratore nucleare. Vabbè. Comunque, quindi ho iniziato con i cartoni animati. Poi, visto che mia mamma, come dicevo prima, è una scrittrice, è venuto uno di Canale 5 a intervistarla e mi ha dato l'anticipazione, sarà stato penso l'86 o 87, mi ricordo che andavo alle elementari, quindi 87, e mi fa: ah, guarda che a Natale, era il periodo estivo, fa: guarda, a Natale lo trasmettiamo su Canale 5 il film. Io l'ho passato tutta l'estate ad aspettare che uscisse il film in tele, per poi l'ho registrato, guardato, e quella cassetta è stata consumata e riconsumata. Il consumare le VHS è qualcosa che probabilmente manca alla generazione subito dopo di noi. Esatto, sì, non hanno l'idea del tracking. Metti a posto il tracking perché si vede male. No, ma l'idea stessa è che il contenuto che adori sia deperibile. Sì. E quindi in qualche modo doverlo custodire bene, tenerlo bene, sì. Adesso le cose sono cambiate, c'è lo streaming, eccetera, non c'è più il possesso, ma nel momento in cui poi non hai più internet, cosa fai? Rimani senza guardarti Ghostbusters? No. Io ancora adesso comunque, come tutti gli altri ragazzi di Ghostbusters Italia, ogni tot ci gira e ci guardiamo Ghostbusters 1, Ghostbusters 2, o addirittura ci organizziamo le serate. Oh, ragazzi, sabato sera guardiamoci tutti i Ghostbusters. E succede, poi quelle 2-3 volte all'anno succede. E il fatto di sapere a memoria le battute le recitate voi prima o... Guarda, ti dico, quando c'è stato che hanno ridato al cinema Ghostbusters, ovviamente siamo andati anche per fare rappresentanza un po' in tutte le città in Italia, e noi eravamo qua a Torino al multisala, ovviamente eravamo io con i ragazzi di Ghostbusters Torino, quindi erano 4-5, e le battute le dicevamo in anticipo. Finché tipo dopo una mezz'oretta dall'inizio del film, quello davanti si gira e fa: ragazzi, siete fantastici, è tutto fighissimo, però avete rotto le beep con no, ma si possono dire le parolacce qui sulla di Archimede. Infatti. In effetti, è più forte di noi. L'importanza di essere l'importanza di essere nerd. Ammettiamolo. Adesso la portanza. Sto facendo fare outing sul nerdismo a un sacco di ospiti qui. Qui ci si ritrova, si ammette di esserlo e basta, perché in fondo abbiamo vinto noi. Dopo Big Bang Theory. Esatto. Ma tu ti ricordi La rivincita dei nerd? Altro, a parer mio, filmone degli anni 80. Te lo ricordi? Sì. Non ti vedo convinta. A me è piaciuto un sacco. Ok. Tu no, non l'hai trovato... Lo considero un pochino più di seconda fila, quantomeno. Beh, certo, sì, certo, non è del calibro di Ghostbusters o dei filmoni cult, anche perché cioè, non è lì c'era già un discorso sociale dell'esclusione, quanto invece Ghostbusters, Ritorno al Futuro, Goonies hanno costruito un mondo, e a quel punto lì non avevi neanche bisogno di sperimentare in qualche modo quel tipo di vita sociale per riconoscerti, essendo un mondo fantastico. Beh sì, ma ovviamente non puoi paragonare La rivincita dei nerd a un Ghostbusters o a un Ritorno al Futuro, anche perché tu dici Ghostbusters, Ritorno al Futuro, Indiana Jones, a una qualsiasi persona lo conosce e ti canticchia anche magari la canzone. Esatto. Dici La rivincita dei nerd, sono, non dico in pochi, ma rari quelli che ti sanno dire: ah sì, l'ho visto. Tipo all'ultima fiera che sono stato, dov'ero? A Carrara, al Carrara Show, ho preso la spilletta di La rivincita dei nerd e il ragazzo che me l'ha venduta, anziché poi me l'ha regalata perché è un mio amico, fa: no, La rivincita dei nerd. Faccio: certo, è ovvio, non puoi non conoscere quel film, che a me era piaciuto insieme anche a Porky. Ok. Beh, il capostipite di questo è Animal House, direi. Beh, e anche sì, lì andiamo a parare e si ritorna ai quattro capisaldi della comicità anche lì, americana. Adolescenza, riti collettivi, provincia americana, e allora American Graffiti, e allora George Lucas. È tutta una rete, in realtà. Sì, sì, è tutto collegato. È una specie, la cultura nerd in fondo è la nuova cultura classica, o come dice Davide La Rosa, i filosofi erano solo dei nerd di altri argomenti. Sì. Quindi, e di altri tempi. Di altri tempi, senz'altro. E anche di altri relativi ad altri argomenti. Poi ogni società vive il suo nerdismo in modi diversi. Poi ci sono dei modi molto interessanti per viverle questa passione, che è fare, come nel caso vostro, fare fiere o allestire aree tematiche alle fiere. A Torino Comics avevate un bellissimo spazio, addirittura la ricostruzione della cantina dello scantinato. Quella lì è stata una... Allora, per spiegare bene questa fase di Ghostbusters Italia bisogna partire dal prima, quindi dal 2006 fino al 2012, quando Ghostbusters Italia era solo un gruppo di fan sul web che ogni tanto alle fiere si rincontravano e andavano in giro per la fiera in gruppo. Bene, dato il successo, diciamo così, sia nei contest sia anche del pubblico, comunque quando vedeva 4-5 Ghostbusters insieme si creava la coda a fare le fotografie, anche nei contest hanno sempre vinto come miglior costume, miglior gruppo, migliori accessori, tutte queste cose qua. Allora si è pensato, io non ero ancora in Ghostbusters Italia, quindi hanno pensato di salire di livello e quindi costruire uno stand su misura per le fiere con Ghostbusters Italia. Quindi ritorniamo a Gushi, il nostro master proper, ha aperto un crowdfunding nel sito di Ghostbusters Italia, nel forum, che una volta era su Forum Free, e anche io ho partecipato dando i miei 50 euro per fare appunto lo scantinato, che è stato presentato nel 2013 al Cartoomix, e quello è stato il primo anno che Ghostbusters Italia ha avuto uno stand a una fiera. Da lì complice anche il fatto che io mi sono, appunto, è stata la prima fiera che ho fatto, mi sono, sono partito per la tangente, ho detto boh, voglio fare il Ghostbusters tutta la vita. Ho iniziato ad andare a tutte le fiere, quindi a portare Ghostbusters Italia in molte fiere, in molti eventi, portare sempre più roba. Poi anche Gush ha iniziato a fare dei mini giochi, quindi portavamo la scenografia, il banchettino con le nostre attrezzature e un mini gioco, quindi si è iniziato a fare intrattenimento alle fiere. Una cosa che probabilmente, adesso non sono sicuro di quello che sto per dire, ma molto probabilmente Ghostbusters Italia è stato il precursore di portare intrattenimento alle fiere, perché una volta, cioè per quelle poche fiere che ho visto prima che noi iniziassimo proprio pesantemente a fare animazione, non è che c'era tutto questo coinvolgimento nel pubblico, nella scenografia, nella, nell'area che si era dedicata, che so, a Star Wars o Battlestar o quello che era. Mentre noi appunto avevamo portato questi minigiochi, quindi il pubblico interagiva con le persone che erano lì in costume, e da lì hai visto che anche gli altri hanno iniziato a dire: ma però questa cosa non è male, funziona. E allora è uscito il giochino di quello, il giochino degli altri, e adesso diciamo le fiere italiane hanno un altro, l'area associazione, diciamo così, delle fiere italiane. Tu sai che vai lì, ti diverti, fai qualcosa, qualcuno ti rilascia qualche attestato o comunque fai una foto particolare che non avresti potuto fare magari qualche anno prima. È il passaggio successivo, al di là l'evoluzione, del mettersi in costume, che il mettersi in costume di per sé è l'essere riconosciuto, le fotografie, però è qualcosa di abbastanza statico, quasi, quasi passivo, è un sì, essere presente, diventa un qualcosa di attivo, quindi tanto di cappello. Non siamo in modo, non abbiamo modo di verificare se siate, se Ghostbusters d'Italia siete stati effettivamente i primi, però nel caso noi in qui limitatamente a solo nuvolette di oggi abbiamo deciso che Ghostbusters d'Italia vanta anche questo primato. Esatto, quindi decidiamo questo, perché giustamente come dicevi prima, i primati, noi abbiamo già tre primati di Ghostbusters Italia. Allora, uno è appunto aver ricreato in scala 1 a 1 lo scantinato della caserma dei Ghostbusters, non dico accurata al 100%, ma 95-93 tutto, che ce l'hanno invidiato fino agli americani, i giapponesi. Quando l'abbiamo presentato al Cartoomix, per i mesi successivi ne hanno parlato tutti, anche Wired ha parlato del nostro stand, quindi fate la portata che abbiamo avuto. L'anno dopo abbiamo presentato l'Ectotank, che quindi facevamo vedere slime, abbiamo fatto vedere i fantasmi al pubblico. Qui anche lì con interazione, quindi c'era lo spettacolo, più che spettacolino, l'introduzione di tutto quanto, recitata, magari anche coinvolgendo il pubblico. E quest'anno, 2015, la novità, perché adesso facciamo ogni anno, facciamo una novità, quindi chissà cosa succederà il prossimo anno, abbiamo portato il quadro indemoniato, che anche quello ha avuto un successo esorbitante. Tant'è che appunto al Torino Comics un ragazzo ha fatto il video del quadro. Nel giro di 2 settimane ha fatto 30 milioni di visualizzazioni. Questo ragazzino aveva poi in sé solo 40 amici su Facebook, però si vede che tra questi 40 c'era qualcuno che aveva una visibilità mortale, l'ha condiviso e è diventato virale. Infatti la ditta che produceva questi filmati, perché comunque non è che abbiamo inventato noi questo video, è una cosa che abbiamo trovato su internet, abbiamo comprato, fatto tutto il contorno, e ha avuto un boom pazzesco. E nessuno che ha scritto Ghostbusters Italia, video ripreso al Torino Comics sullo stand Ghostbusters Italia. Infatti ogni volta che lo vedevamo in giro noi: Ghostbusters Italia, Ghostbusters Italia. E ci teniamo ai nostri primati. Infatti uno arriva, questo è un po' il problema, i downsides di internet, la condivisione. Uno dovrebbe arrivare al punto, dovevate mettere nel video il loghino, però il video non era vostro. Infatti adesso abbiamo imparato e abbiamo fatto, faremo un video nostro, quindi non vi dico niente, secret, comunque sì, ci sarà il logo che gira anche in questo, così se uno filma solo il quadro appare che è Ghostbusters Italia che fa tutto sto baradan. Ok, continuiamo a parlare delle fiere e di questo modo di vivere e di far vivere in modo diverso le fiere di fumetto e di cultura pop. Dopo la canzone siamo partiti con un rock ballabile anni 80, andiamo un po' più indietro nel tempo, rifacci, AC/DC, Australia, cosa dobbiamo dire di più? Com'è? La strada per l'inferno e la stricata di buone intenzioni. Sì. Questa è un'autostrada per l'inferno. Highway to Hell. E rieccoci in onda con Sono Solo Nuvolette, sempre dalla biblioteca Archimede di Settimo Torinese. stiamo dimostrando con puntata dopo puntata che l'universo della cultura pop è vastissimo e ho avuto il piacere di avere tanti autori, disegnatori, sceneggiatori, scrittori. Poi pensavo anche di ampliare, quindi la settimana scorsa Iguru Guru di una fumetteria e questa settimana Clay Dembek, che rappresenta un po' quello che adesso come fondatore di Ghostbuster Italia, ma rappresenta anche quello che sono oggi le fiere del fumetto e della cultura pop, come tutta una serie di attività collaterali che rendono una fiera una via di mezzo tra un momento per incontrare persone che hanno passioni comuni alle tue e anche un momento ludico di intrattenimento, e forse è anche il motivo per cui hanno così tanto successo. Sì, infatti se stai a vedere le fiere che hanno più successo sono quelle dove appunto il pubblico ha qualcosa da fare, non è solo lì a spendere soldi nella parte commerciale e fare fotografie ai costumi e ai cosplayer. Sono quelle dove vai sì a comprarti il tuo gadget, vai sì a farti le foto, però intanto ti prendi l'attestato da Ghostbusters Italia, vai a fare il gioco di là da Battlestar Galactica, poi vai dall'Umbrella e ti fanno lo spettacolino con gli zombie. Insomma, è dove la gente ha qualcosa da fare. Infatti, come organizzatore del Torino Comics, una nostra idea è anche quella di far diventare la fiera un piccolo parco giochi. Quindi dove tu vai e ti diverti, dove magari l'andare a comprare il gadget non è più vado alla fiera perché trovo quello che non trovo in giro, vado alla fiera perché vado a fare dei giochi, vado a divertirmi una giornata, a fare delle cose che normalmente non potrei fare. È una strana ricaduta, il mondo di internet contemporaneamente, il fatto che si stia così tanto al computer o così tanto attaccati a uno smartphone a comunicare, ha creato questa voglia in contemporanea degli eventi dal vivo, quindi prima i festival e adesso questa variante dei festival, che in realtà le fiere di fumetto sono qualcosa a metà tra una fiera del libro e un qualcosa dell'intrattenimento, quindi sì, ok, magari si perde per una serie di congiunture e soprattutto determinate fiere perdono la componente fumetto, ma banalmente nel discorso della vendita fumetto, e però acquistano tutta una serie di altri contenuti che non hanno meno dignità, è qualcosa di diverso. Poi sì, ogni fiera poi sceglie pian piano la sua strada. Sì, giusto, esatto. Come adesso c'è, come abbiamo visto anche insieme, che ci sono parecchie fiere, forse fin troppe fiere in tutte le città, paesino, paesello, c'è un vate la pesca cosplay, vate la pesca... Io dico da persona seria, il comparto delle fiere di fumetto sta crescendo, un po' esplodendo, il problema probabilmente è che non tutti quelli che se ne occupano conoscono così bene l'ambiente o conoscono così bene la materia che trattano. Roberto Recchioni se la prende con le finte nerd in un post, mi pare che fosse la recensione di un recente film, perché c'è tutta una serie di persone che sono appassionate dell'ultima ora, che per noi che abbiamo vissuto l'epoca bene. In cui ci insultavano e ci consideravano degli sfigati, ma chi sono questi, gli ultimi arrivati? È stato un po' sdoganato, diciamo, così tutto quanto è sdoganato, ma è ancora così. Lì è tutta questione di come lo si percepisce, quanto... No, allora, mettiamo così, non trasformiamo il patrimonio nerd in qualcosa di snob. È la cosa peggiore che possiamo fare. Eh beh, sì, anche perché il nerd, alla fine, anche il concetto di nerd è cambiato negli anni. All'inizio, appunto, quando parlavamo di la rivincita dei nerd del film, il nerd una volta era quello che studiava, che stava al computer, ricordo i primi computer, quindi baracconi magari che non giravano a 54k per chi si ricorda, a manovella. Quindi si isolavano perché comunque riuscire a portare avanti un discorso di informatica all'epoca ti occupava tanto tempo perché erano i pionieri dell'informatica. Esatto. E adesso il nerd è anche solo chi si guarda The Big Bang Theory o legge il fumetto, legge il manga, si guarda un genere di film piuttosto che un altro. È cambiata l'idea di nerd, è più ampia rispetto a quello che era una volta, no? E poi l'accesso alle informazioni è molto più facile, tu puoi diventare, in questo momento decidi di diventare un fan di John Carpenter, recuperi, mettiamola così, rapidamente per vie legali in streaming, però per vie legali, mettiamo così, perché ci sono le vie legali ma noi non ne dobbiamo parlare, puoi recuperare molto velocemente anche per vie legali, anche stando al computer, tutta la filmografia o quasi, sì. Però non è qualcosa come essere un estimatore di 15 anni fa. Sì, infatti, dici, io l'ho sempre seguito, mi sono guardato il primo film, l'ho visto quando è andato in televisione, mi sono visto tutti gli altri, invece adesso, per carità, va anche bene, anzi, forse è meglio, perché Io mi ricordo una volta se dovevo trovare la videocassetta di qualche film particolare, dovevo girarmi tutte le videoteche, che adesso neanche più esistono, di Torino, andando a cercare, scusa, ma hai questo titolo? No, te lo devo ordinare, sì. E allora poi andavi dall'altra, l'ho trovato lì, vado a prendere, era l'ultima. Insomma, tutte delle situazioni. Quando trovai una VHS che ci misi 2 giorni a far funzionare in una fumetteria di Via Giolitti, in una videoteca di Via Giolitti, e Star Crash di Luigi Cozzi, Scontri Stellari oltre la quinta dimensione, terza dimensione, che è un film di fantascienza. realizzato in parallelo con Star Wars. In realtà stava uscendo, è del 77, forse 76, stava uscendo nello stesso periodo. Poi c'è questa cosa buffa che in realtà, se chiede ai contemporanei, non si accorsero della differenza perché non c'era internet, quindi un cartellone pubblicitario di Star Crash in Piazza Castello faceva credere che Star Crash, fatto da Luigi Cozzi, girato a Roma da qualche parte, avesse la stessa importanza dello Star Wars girato da Lucas, perché la percezione era la stessa. Vabbè, questo sto divagando. Però quando trovai, mi ricordo era Santo Graal, quando trovai Star Crash in quella videoteca. Forse quella videoteca non c'è neanche più adesso, o se c'è si è specializzato su qualcos'altro, perché è cambiato il mercato, l'accesso. Vogliamo parlare delle holiday special di Star Wars, che era qualcosa ignobile, uno speciale televisivo ignobile di cui parlavano tutti. Io pubblicai una decina d'anni fa un libro su Star Wars, ne parlai senza averlo visto perché non era così trovabile. Adesso chiunque l'ha visto. Non credo che l'abbiano visto fino in fondo perché è terrificante. Io devo ammettere, non sono un grande fan di Star Wars. Ci ho provato da piccolo a guardarlo, mi sono addormentato. Poi ho riprovato da grande, mi sono riaddormentato e ho detto, forse non devo guardare Star Wars. Poi ultimamente li ho rivisti tutti e 6. Uh-huh. E però devo essere sincero, a me piacciono di più quelli nuovi che i primi. Ti perdoneremo per questa volta. Gli apocrifi sono effetti speciali. Se guardi dal punto di vista degli effetti speciali, certo, poi c'è tutto un legame. Anche tu penso che se Ghostbusters li avessi visti da adulto non avresti costruito questo legame. Probabilmente. Anche perché comunque, a differenza dei film di oggi, in Ghostbusters, in Ritorno al Futuro, in Indiana Jones, in Goonies, c'era una morale. Alla fine, una cosa che ho scoperto in Ghostbusters è la morale che c'era in Ghostbusters, ma l'ho scoperta da poco, eppure ci sono cresciuto. E l'ho scoperta come? Parlando con gli altri ragazzi fan di Ghostbusters. Cioè, la morale di Ghostbusters è lo spirito di unione, la collaborazione, l'impegnarsi a fare quello che si fa per raggiungere il risultato, e quello c'è anche in Ritorno al Futuro. I consigli di Doc, com'è che diceva già? Se vuoi costruire una macchina del tempo, una macchina bella, Se ti ci impegni, ottieni tutti i risultati. Una frase del genere, adesso non mi sfugge, bello che la dico sempre. C'è tutta una gamma di valori, no? In quel gruppo di film che adesso festeggiamo perché fanno 30 anni o 25 o 35, e sono più o meno tutti in quella fascia, c'era un set di valori molto più forte di quello contenuto negli stessi remake o sequel contemporanei. Infatti, a proposito di remake, cioè Ghostbusters 3, io lo dico con un po' di amarezza, più che altro perché non capisco certe scelte tecniche, però comunque credo in questo film, spero che serva a rilanciare il brand Ghostbusters, quindi a far conoscere, che poi molti già lo riepilogo di cosa si sa a beneficio del pubblico di questo Ghostbusters 3. Allora, e qualunque cosa si sappia è troppo e non va bene. Allora, una delle ultime novità. Allora, si sa che rifanno Ghostbusters, sarà una sorta di reboot al femminile, quindi con le protagoniste al donne. E una delle ultime novità è stato l'attore che farà il centralinista, perché una volta c'era Janine, Annie Potts, che faceva appunto la centralinista, adesso hanno invertito i ruoli, quindi deve essere il centralinista. Ok. Ed è l'attore che ha fatto Thor. Ok. Quindi tu ti vedrai Thor. Sì, acchiappa fantasmi. Sì, siamo tornati. Non so come potrà fare questa scena. Però magari col martello in mano, non lo so. Vediamo. Ha una tale espressività Chris Hemsworth che può anche stare a fare. Non stiamo parlando di Robert Downey Jr. Quindi. Però non so. E altre, speriamo che facciano un buon lavoro. Non ci sono altre, questa inversione al femminile che non capisci bene. Evidentemente c'è Attached, un'attrice a cui è piaciuta, un'attrice di qualche piuttosto nota, perché è così che funzionano i film a Hollywood, soprattutto di questi tempi. Deve quasi sempre esserci un nome noto che aiuta a vendere il film, anche se è un franchise. Guarda, io non ho seguito più di tanto le informazioni che ci sono, perché non ci voglio pensare. Voglio poi andare a vedere il film e vedere come esco. Per me non c'è nessun problema, possono fare quello che vogliono, basta che sia, insomma, non troppo scollegato al primo. Che facciano un buon lavoro, che magari facciano qualche cameo dei vecchi attori, quelli che sono rimasti. Ma si era parlato a lungo di un Ghostbusters 3 col cast originale, poi è naufragata la cosa. Ma lì è Danny Croyd che sono 15 anni che dice cose, che uscirà Ghostbusters 3, faremo i botti, e poi addirittura ha detto una volta che uscirà questo 3, questo reboot al femminile, facciamo una serie TV, facciamo altri 3 film. Va bene. Fateli. Ma è Danny Croyd che detiene i diritti, essendo stato uno dei sceneggiatori? Sì, sono lui, Harold Ramis, che ormai non c'è più, la famiglia, e Bill Murray. Sono loro che hanno i diritti. Dicevano che avevano appiccicato l'etichetta del cattivo a Bill Murray, che non aveva voluto. Sì. Però non c'è modo di verificare. No, è così. Bill Murray per anni, sia Harold Ramis che Danny Croyd, gli hanno proposto di farlo. Anche quando erano tutti e tre un po' più giovani, avrebbero potuto farlo, ma lui assolutamente no. Addirittura in un'intervista recente ha detto non avrebbe senso fare un Ghostbusters adesso, perché lui ormai la sua carriera è salita al top, che ne so io, insomma. Diciamo che a me Peter come Ghostbusters è sempre stato quello che mi è stato meno simpatico di tutti, a prescindere, da sempre. Poi Bill Murray come attore mi piace, anche in quello dello spirito del Natale, come si chiama? Scrooged, SOS Fantasmi. SOS Fantasmi in italiano. Ha sempre fatto il personaggio, sai, strafottente, quello che se ne frega, quello che... Anche in Stripes. Sì, è un po' la sua maschera. Esatto, è un po' era il suo personaggio all'epoca. Adesso è impegnato, fa film impegnati, eccetera, eccetera. Comunque, che poi se vai a vedere la forza di Lost in Translation, che è il film che lo ha rilanciato, è giocare comunque su questa sua maschera, perché lui interpreta l'attore famoso un po' in declino, che con un'espressione ti accorgi un po' lo scazzo, fa ridere certe scene, perché lui deve fare questa pubblicità del whisky, mi pare, con un ghigno. Non l'ho visto. Non hai mai visto Lost in Translation? No, perché pure non mi piace al di fuori del sì, suo... Sì, però Scarlett Johansson al primo film dovresti, Fosse sì. Solo perché... Sì, perché poi adesso è diventata troppo glamour, ce la siamo persa. Non la riconosci più da un film all'altro, la fanno apparire alta 2 metri sulle locandine, che dici, vabbè, ma perché? Vabbè. Io non so, io sono sempre stato per i film di Bill Murray dal, diciamo, 97 in poi, da quando ha fatto Ricomincio da capo, okay. Che poi ha cambiato genere di film, non ha più fatto le commedie brillanti, che serve qua, e tra l'altro Ricomincio da capo di Harold Ramis. Esatto, che fa un cameo nella parte dello psicologo. Esatto, altro filmone che comunque... Bello, un bel film. Un altro frutto di quella stagione fortunata di cinema. Esatto. Anche se lì è anni 90 comunque, già anni 90, beh. Però era sempre nella stessa comicità, nella stessa brillantezza, esatto. Diciamo. Esatto. E mi è passato in mente cosa stavo dicendo? Sì, ti chiederei come hai visto a ritroso, perché i 4 Ghostbusters nella serie animata, quella di Real Ghostbusters, sono in realtà diversi. Da quelli del film, come l'hai vissuta questa trasformazione dei personaggi? Hai detto di aver conosciuto prima la serie animata, ma poi ma se stai a vedere poi non sono tanto diversi, perché Peter è sempre il solito Peter. Egon è sempre quello che lo scienziato. Che sa tutto. Ray è la via di mezzo tra lo scienziato e il massi e Winston è il dipendente che dice, okay. Dimmi quello che devo fare, io lo faccio. Ok, quindi in realtà i caratteri secondo te sono preservati nel cartone animato, sono differenziati molto graficamente, perché Egon è biondo. Sì, quelli li hanno differenziati, anche i colori delle tute sono diversi, ma anche lì c'è una spiegazione. Perché praticamente nella prima puntata pilota del cartone animato, che in Italia ovviamente non è andata in onda, loro avevano le tute marroni come nel film e avevano i capelli come nel film. Ah, ok. Anzi, nei capelli, solo nella sigla, che era una sorta di pilota anche quello, che quella è andata in onda in Italia, che tra l'altro è un... l'avevano usato quella sigla anche per fare il merchandise dei giocattoli della Kenner. Ok. Infatti tutti i giocattoli quella serie che appaiono esiste in parallelo ai giocattoli, nel senso, esatto, hanno fatto prima il merchandise, perché poi molti giocattoli che ci sono della Kenner non esistono poi nel gioco, cioè nel cartone animato, perché hanno fatto questa puntata pilota dove questo trailer pilota dove si vedevano tutti questi attrezzi, queste cose che poi la Kenner ha fatto, ma nella serie TV, nella serie cartoni che poi hanno realizzato, non c'erano. E comunque, tornando alla prima puntata, che loro avevano le divise marroni, praticamente loro le cambiano e potenziano le tute, perché il cartone animato prende esattamente dalla fine dell'1. Quindi loro arrivano dopo aver catturato, cioè sciolto il Marshmallow Man, e hanno le tute appunto impregnate di melma, diciamo, sì, così, di ectoplasma, e le lasciano lì vicino all'unità di stoccaggio. Queste tute a un certo punto si animano, quindi vanno in giro per la città con zaini protonici invertiti a buttare fuori fantasmi. E quindi allora i Ghostbusters, Egon crea queste nuove tute più potenti, più reattive, che però hanno colori diversi, perché mi sembra, adesso non voglio dire una cavolata, ma mi sembra che si adattano all'umore di chi le tiene. Però non sono sicuro, non mi ricordo bene, perché quello l'ho visto qualche anno fa e non me lo ricordo bene. Dovrei riguardarlo, anche perché non è facile trovarlo. C'è parecchio anche nel... uno pensa a Ghostbuster e pensa solo a due film, e poi in realtà c'è tutta una serie di serie animate, poi un videogioco fatto di recente. Esatto, il videogioco che per molti fan è Ghostbusters 3. Ah, ok. Perché il videogioco inizia, mi sembra, 3 o forse 5 anni dopo Ghostbusters 2. Quindi ci sono riferimenti a Ghostbusters 1, Ghostbusters 2, su una storia nuova. E la storia di tutta la storia del videogioco è sempre scritta da Harold Ramis e Danny Croyd. Quindi sono loro che hanno fatto Ghostbusters 3. Esatto. Il multimediale, il digitale, è un altro linguaggio, cioè quello dei videogiochi, ha permesso comunque di concludere la trilogia di Ghostbusters. E il tempo corre, ma abbiamo solo più un minuto e posso giusto annunciare l'ultima canzone. Vorrei darti ancora lo spazio per dare coordinate internet di Ghostbuster Italia, qualche riferimento. Molto semplice: www.gbitalia.it. GB sta per Ghostbusters, ghostbustersitalia.it, quindi www.gbitalia.it, o la pagina Facebook Ghostbusters Italia. Perfetto, grazie a Clay Denbeck per essere stato con noi. Grazie a voi per ci lo sarebbe spazio. Tantissimo di cui parlare di Star Wars, magari se ricapita ritorni, magari combiniamo una seconda ospitata. E comunque Ghostbuster è un pezzo importante della cultura pop e abbiamo detto una stagione fortunata di cinema che oggi è diventato cinema, fumetto, audiovisivo, videogame eccetera, che è tutto il calderone a cui attinge Sono solo nuvolette, di cui ci piace parlare, raccontare e in qualche modo anche spiegare ai non addetti, ai non nerd, ai gaijin. Sono solo nuvolette chiude qua, grazie a Giovanni in regia. Annuncio l'ultima canzone e vi do appuntamento a martedì prossimo. L'ultima canzone è sempre per attingere a quella stagione, anzi in realtà un film un po' prima, perché Walk This Way era una battuta di Frankenstein Jr., quindi stiamo parlando altro cult, di un decennio prima, di Mel Brooks, di tutto un altro immaginario, però anche lì parliamo di cult. E quindi Walk This Way ispirò la battuta di Igor, ispirò questa canzone a un gruppo che si chiamava Aerosmith. Ho già messo un pezzo degli Aerosmith e qui non faccio mai doppio, quindi mettiamo il pezzo dei Run DMC con gli Aerosmith degli anni 80. Walk This Way.